5D. Ascolta e completa. Non ti va di leggere? E allora non leggere. Non ti va di scrivere? E allora non scrivere. Non ti va di attendere? E allora non attendere. Non ti va di correre? E allora non correre. Non ti va di ridere? E allora non ridere. Non ti va di uscire? E allora non uscire.